torni allo sprofito che un dì. Come allora sul mio cuore stringerò. Solo te, sempre te, dolce sogno, richiamo d'amor, sussurravi per me le parole del cuor. Quella musica non senti più, sei partita, non l'ascolto più. Solo tu sei l'azzurro del ciel, il profumo dei fior, sei l'incanto d'amor, un risveglio dell'aprile, un caldo soffio tu. Sei quel sogno che non scorgerò mai più.